YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, Web TV, Social TV. Per questo mese di agosto vi lasciamo in compagnia degli incontri più divertenti, interessanti, appassionanti delle ultime settimane, ma torniamo presto e potete sempre stare in contatto con noi attraverso i nostri account di Twitter @MartaCagnola e @DiBellasio e con l'hashtag Cancelletto Radio Tube. Ecco la nostra puntata di oggi. Radio Tube. Aspetta Daniele che devo lanciare, perché aspetta che riesco a prendere Squirtle. Ho visto Squirtle. Aspetta che prendo. Chi è Squirtle? L'ho preso, ho preso Squirtle. Ho preso Squirtle, chi è? È Pokémon Go, non stai giocando a Pokémon Go? Lo so, Pokémon Go, ho letto, c'era sulla prima pagina del Financial Times il fatto che ha praticamente fatto esplodere le azioni della Nintendo, capito? Salva 7-8 aziende, ma è un gioco. Allora, per capire che cos'è questo gioco, Pokémon Go, è la prima volta che viene a RadioTube, perché è sempre venuto al Sabato del Villaggio, quindi lo presento agli ascoltatori di RadioTube che non avessero mai seguito il Sabato del Villaggio, e lo presento anche a te. Il suo account di Twitter è @addio e grazie per. Scrive su un sacco di testate, tra cui il nostro domenicale, Emilio Cozzi. Ciao Emilio. Ciao Marta. Ciao Daniele, come state? Io bene, perché sono libero dal gioco. Lei meno, perché sta giocando. No, perché poi adesso stavo prendendo anche delle uova che sono cascate lì, perché stavo... Sì, qua, Radio 24, ci sono delle uova. No, perché ho inquadrato, davanti noi abbiamo il centro sociale, il cantiere, c'erano delle uova. Forse al centro sociale non lo sanno. C'erano delle uova di Pokémon. Molto, molto probabile, perché sono un po' dappertutto. E anzi, poi ci sono le palestre, poi ci sono i luoghi di raduno, dove è possibile addestrare, allenare i Pokémon, dove è possibile farli aumentare di livello e dove è possibile poi alla fine, oltre il livello 5, il celeberimo livello 5, confrontarsi con gli altri giocatori nella realtà. È un gioco che si gioca col telefonino, con la videocamera del telefonino, e quindi accesa. Noi vediamo il mondo reale con il GPS, quindi siamo localizzati, ma noi nel mondo reale facciamo Google Map. Ma facciamo una caccia al tesoro virtuale, cioè noi troviamo dei Pokémon, degli oggetti, delle cose come se fossero davvero nel mondo reale. Cosa che ha anche una serie di controindicazioni, Emilio. È corretto, tutto quello che avete detto è corretto, compreso... E ci sto giocando. Esatto, compreso il citare Google Maps, perché l'applicazione, appunto è un'applicazione per mobile, si trova sia per Android che per iOS, è stata sviluppata da Niantic Lab, che è uno spin-off di Google, che l'anno scorso lanciò un gioco molto simile, che ebbe evidentemente molto meno successo, cioè Ingress. Era un gioco attraverso il quale si poteva girare per le città e fare questa sorta di guerra accaparrandosi delle zone contro una avversaria. E cosa mancava? Mancava l'ingrediente Pokémon, che è uno degli ingredienti, come dire, più fortunati degli ultimi anni. Uscito nel 96, 260 milioni di videogiochi dedicati ai Pokémon scaricati in tutto il mondo. Ma c'è anche l'effetto nostalgia, cioè il fatto che i 30-40enni li abbiano vissuti 20 anni fa. Verissimo, verissimo. Ma la cosa bella, come dire, transgenerazionale e transmediale, perché questo gioco raduna veramente diversi elementi, diverse suggestioni molto contemporanee, è che ci sono sia i ragazzini, che i Pokémon forse li conoscevano per sentito dire, sia, ahimè, quelli della mia veneranda età, che non vedevano l'ora in realtà di riprodurre quello che succedeva nei cartoni animati, cioè che le persone girando per strada incontrassero questi mostri tascabili, Pokémon è la crasi tra Pocket Monster, e li allenassero, addestrarsi per future battaglie. Il problema è che io qua in studio ho un po' di problemi col segnale GPS, non mi trova, quindi non trova, no. Grandi, a parte me, no, non ci sono altri mostri. No, il Squirtle l'ho trovato sulla scrivania di Michelino dietro di Michelino. Noi. Michelino. Sì. Chissà sulla scrivania di Cruciani. Vabbè, ma senti, siccome Emilio, siccome la app è gratis, come ci guadagnano? Cioè, dove sta la parte industriale dietro? La parte industriale sta nel fatto che tu possa acquistare sfere per cacciare mostriciani, lanciatoli oppure altre, diciamo, altri power up, per esempio una sostanza, l'aroma, attraverso la quale una volta liberata si possono attrarre nella propria zona dei mostriciattoli, diciamo, più o meno prestigiosi. Queste cose si pagano, queste applicazioni si pagano. E poi ogni tanto, devo dire, ad esempio, io sono una, Emilio lo sa, che gioca tanto a Candy Crush, mi diverto molto con Candy Crush, sono a livello massimo da ormai da anni e aspetto sempre che escano nuovi livelli. In metropolitana va fortissimo. Sì, esatto. Sì, ma perché è perfetto, perché quando devi aspettare ecco. E puoi comprare i booster, cioè dei piccoli aiuti. Non lo fai quasi mai. Però quella volta che ti incastri proprio sul livello, che ti manca una mossa, dici vabbè, questi 99 centesimi li spendo. E credo che per molti funzioni così, cioè che è difficile, ci saranno anche quelli che spendono un sacco di soldi, però quella volta che dici vabbè, senti, tanto è un euro, lo spendo. Ti do due dati. Nominato Candy Crush, che era il gioco mobile più di successo fino ad ora, Candy Crush ha 20 milioni di utenti attivi al giorno. Bene, Pokémon solo negli Stati Uniti ne ha 21 milioni, per cui siamo agli inizi di una cosa pazzesca. Legendary Pictures, una delle grandi compagnie di produzione hollywoodiane, sta già meditando di realizzare il film. Stiamo parlando di un fenomeno che ha qualche giorno di vita, una roba pazzesca. In metropolitana, citavi bene il fatto che si potesse giocare, benissimo, a New York da l'altro ieri ci sono gli avvisi che suggeriscono di non cacciare sui binari perché è un po' pericoloso. Ecco, no, parliamo anche un po' delle controindicazioni, perché voglio dire, ovviamente crea dei problemi. In alcuni posti si è già parlato di incidenti stradali, insomma sono stati degli alert seri. Sì, ho visto ad esempio giro una foto su Twitter, non so se è vera o se è un fotomontaggio di un'autostrada americana con il cartello Don't Pokémon and Drive, che però anche se fosse un fotomontaggio mi pare sacrosanto. Per esempio, una grandissima gaffe: Museo dell'Olocausto di Washington pare fosse una palestra di Pokémon e che la gente andasse lì a cercare mostriciattoli in un luogo che evidentemente come dire, non suggerisce tutt'altre riflessioni. Ma i casi sono tantissimi. D'altra parte è anche vero, e questo un pochino lo diciamo spesso con te Marta, i videogiochi sono una e l'altra cosa. Grandissimo, con grandissima concentrazione di ragazzini a Central Park, che è uno dei luoghi deputati per allenare i Pokémon, che si conoscono, si guardano e giocano insieme per la prima volta aiutati da questa applicazione. Pikachu! Pikachu! Eccolo, qual era Pikachu? Era Pikachu? Era il più famoso. Non li conosco. Quello già lì. Conosco quasi più gli youtuber dei personaggi. Siamo messi bene. No, tra l'altro ho scoperto che la Nintendo tornerà a vendere una console famosissima. Cosa succede? Torna qualcosa sul mercato? Beh, Nintendo ha promesso, diciamo anzitutto che Nintendo, voglio dire, sta ringraziando i Pokémon tutte parecchio, le mattine. Sì. Io tutte non sapevo neanche ore che esistesse ancora praticamente. Esatto. Era, dici bene, perché era pesantemente in crisi. L'ultima console Wii U, che i suoi manager prevedevano vendesse 100 milioni di unità, si è fermata a 13, un risultato non esattamente eclatante. Nintendo molto in crisi e la stanno tirando su proprio i Pokémon con Pokémon Go. Pensate che si parla di un ricavo mensile attorno ai 150-200 milioni di dollari ogni mese. Tra l'altro Nintendo incassa solo il 30% di quanto fattura il gioco, perché il resto è di Niantic e di Pokémon Company, che è la società che detiene i diritti dei Pokémon con Nintendo. Ebbene, come dire, il prossimo passo salvifico per l'azienda, pensavano, sarebbe stata questa fantomatica console ancora misteriosa, NX, in uscita forse l'anno prossimo. Si sono un attimo portati avanti coi conti, diciamo. Sì, col successo, sì. Sì, ma a me quando rifanno il Commodore 64 lo compro, quindi sono sicura. L'Atari, io avevo il Commodore 64. E allora poi dopo un po' l'ho avuto. Vai. Ti dirò che Nintendo ha annunciato un'altra cosa, assolutamente a sorpresa: un NES, una piccola console, il Super Nintendo, miniaturizzata, sta in mano, però funziona esattamente come quella vecchia, con già 30, credo 80, non ricordo, giochi dell'epoca funzionanti, tra cui Super Mario, vai. Tra cui, e quindi insomma, questi sono tutti giocattoli per quarantenni. Vero. Sì. Però mi interessa perché insomma nasceranno altri giochi con software simili, immagino. Diciamo che in tanti hanno parlato già all'inizio di quest'anno, saranno della realtà virtuale. In realtà gli analisti dicono che la realtà virtuale fatturerà forse un decimo della realtà aumentata. Pensiamo a Google, pensiamo a HoloLens di Microsoft, pensiamo a Magic Leap, queste startup che stanno lavorando appunto alla creazione di contenuti inseriti nel nostro mondo, che però lo aumentano, appunto realtà aumentata, che potranno essere di qualsiasi tipo. Nel famoso trailer di HoloLens si vede questa casalinga disperata di fronte a un lavabo distrutto richiama l'idraulico che le compare accanto e l'aiuta facendole vedere come si ripara, a riparare il lavabo. Oppure non voglio voglio sapere altro, sì, degli esatto, idraulici virtuali che appaiono. Non voglio sapere altro. Ma perché appena si dice idraulico negli occhi delle donne? Non lo so, si dice, sono leggende metropolitane. Microsoft, sapendo la cosa, immediatamente ha generato un idraulico virtuale, proprio istantaneamente. Parte anche Super Mario, esatto, più o meno. Giusto. Vabbè, quindi adesso noi dovremmo diventare bravissimi. No, volevi mandare un altro pezzettino. Quello che io chiamo Squirtle. Che è quello che ho preso prima. Adesso io c'è una pausa, vado a cercarne altri. Stai vincendo, si vince. Ciao, quando Mende! Si vince? Non ciao! Si sa. Capito, ci sono tutti. Adesso li vado a cercare. Dai, Daniele, datti un po' anche tu a Pokémon Go questo fine settimana. Sì, così poi rinvitiamo Emilio e proviamo altri nuovi giochi. Devo fare un sacco di cose però facendo questa trasmissione. Un corso di aggiornamento esatto, di tecnologie. Vabbè. Grazie Emilio Cozzi per essere stato con noi. Chiocciola, addio e grazie per sapere tutte le cose più... Ma per cosa? Per addio e grazie per tutto il pesce. Che sembra, dopo il discorso dell'idraulico, una cosa estremamente equivoca, sembra, ma è una cosa bellissima. È una bellissima un citazione di letteraria. Fantascienza. Addio e grazie per tutto il pesce, googlalo e troverai il mondo. Che figura da ignorare. Sappi che la risposta è solo una. Ma è sbagliata. Ed è 42. Ci troviamo dopo la pausa, ciao! Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene un ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì sì, è vero, c'hai ragione Filippo, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10. Su Radio 24. Oh, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Radio Tube. E ci ritroviamo insieme dopo una breve pausa nella quale ho giocato, sono ancora andata a caccia di Pokémon. Ma io te l'avevo detto. Ma perché mi hanno detto che ce n'era uno nella zona là dei tecnici e... Io te l'avevo detto che saresti stata risucchiata, io non ho scaricato l'applicazione, io faccio parte di quell'elite del paese illuminata che ha deciso di non abbassiamoci a giocare con i Pokémon, quella roba lì, non questa si fa. È esattamente la divisione che si è operata questa settimana, proprio nel mondo social, settimana. Diciamo così, è arrivata l'esplosione dei puzzoni e che si perde tempo a giocare. Beh, un po' si perde tempo a giocare. Vabbè, ma viva Dio, fanno gli incidenti, ci si distrae. Ah, che lamentosi. Sai che ho trovato la soluzione. Qual è? O meglio, l'ha trovata il fumettista Sio, sì, che attraverso il canale YouTube famosissimo Scottex, cioè Scottex con CS, ha risolto ogni problema riguardante Pokémon Go. Sai quale? No, ma sono tutto orecchie. Mostriamo il video alla radio. Mostriamolo. Stai giocando a Pokémon Go, vero? Non muoverti, hai un Pikachu sul naso! Ciao! Ti ritrovi anche tu in questa situazione? Questo gioco rende tutti stupidi. Ti riconosci anche tu in questo pensiero? Come se non avessimo già abbastanza zombie per le strade. Hai formulato anche tu questa riflessione? Questo gioco è la rovina dell'umanità. Hai giudicato anche tu questo giudizio? Odio la gente che si diverte, dovrebbero tutti fare come me al posto di divertirsi, lamentarsi della gente che si diverte. Non preoccuparti! Esiste un prodotto fatto su misura per te. Un secchio di cavoli tuoi. Un secchio di cavoli tuoi è la soluzione ai tuoi problemi. Wow, un Geodude. Fermo! Fatti un secchio di cavoli tuoi. Un secchio di cavoli tuoi agisce efficacemente sull'ipertensione, dilatando i vasi sanguigni. Il cavolo ha molte proprietà rilassanti. Lascia che le persone si divertano con ciò che le diverte. Tu hai di meglio a cui pensare. Al tuo secchio di cavoli tuoi. Un secchio di cavoli tuoi contiene moltissime vitamine ed è disponibile in varie colorazioni. Secchio di cavoli tuoi è un presidio medico-chirurgico. Attenzione, mangiare solamente i cavoli e non il secchio. a mangiare solamente i cavoli e non il secchio. Io la trovo fantastica. Bello. E devo dirti che secondo me il secchio dei cavoli tuoi ma è applicabile. È tutto vero. È tutto vero, è applicabile non solo ai Pokémon, in generale, no, nella vita, un secchio di cavoli tuoi potrebbe essere la soluzione. Cioè, lo stai dicendo a me, ma io invece no. ho due curiosità sì. per farmi i cavoli tuoi. Sì. La prima è: se io sono collegato nella stessa stanza al gioco del Pokémon Go, io vedo gli stessi Pokémon che vedi tu. Si che va insieme a cacciarli i Pokémon, e questo è il bello. Non è che un gioco. Cioè, non è un una gioco specie di social network. Non è un gioco solipsista. Eh no, però tutti andate verso il solipsismo. Cioè, tutti andate in un altro mondo. Se ma tutti, tutti insieme. Però insieme, però si fa società. Ma tutti l'altra insieme, cosa è: sì. è stato già inventato il Pokémon versione hardcore? Ce lo chiedevamo in redazione. Il Pokémon porno. Allora io il adesso Pokémon. Lo dico. Adesso lo dico. Siccome me l'ha chiesto prima di andare in onda. Chiesto, certo, io ho googlato Pokémon porno in redazione. Ah. No, lo dico perché se poi qualcuno trova nelle ricerche del server Marta Cagnola. Cioè, no, ho googlato, no, mi portava solo a siti porno. C'erano delle cose. Beh, però non le hai aperte. Ma no, non le ho aperte, però c'erano. Secondo me è una buona idea, ma comunque sì. quindi è un gioco socievole, sì? Cioè tu sì. corri il rischio di conoscere qualcuno perché lo insegui, perché lui sta inseguendo, ti è capitato immagino. Allora, secondo me c'è solo una persona che ci sa dire se i Pokémon può servire a socializzare o se addirittura serve di più a socializzare che altre applicazioni che tipo vengono. Tinder, quelle lighe che... Io posso chiederlo solo alla nostra Chiediamo. Esperta, l'autrice del colonnino amoroso sul Corriere della Sera, la nostra e non la chiamo da un po' di tempo colpevolmente. Buonasera Costanza Rizza Casa d'Orsogna, ciao Costanza. Ciao. Allora Costanza, io sto spiegando a Daniele che Pokémon non è una cosa che non ti spinge a socializzare, anzi cioè... il contrario. Esatto. Tipo? Daniele, ho un sacco di notizie per te. Allora, vabbè, innanzitutto sapete che pochi giorni dopo, anzi un paio di giorni dopo che è arrivato Pokémon, era già subito scaricato più di Tinder. Cosa è successo? Che le persone su Reddit, che è il social network Reddit, comunicavano che incidentalmente Pokémon stava facendo l'incontrare con altre persone. Cosa succedeva? Un ragazzo e una ragazza si vedevano per strada nello stesso momento a cercare i Pokémon e uno faceva l'altro: ma stai anche tu cercando i Pokémon? E poi da cosa nasce cosa, il giorno dopo questi si rivedevano per prendere un caffè. Pokémoniamo assieme. Esatto, scarica la Daniele, scarica la, continua a dire non la scarico perché... ma senti, invece tu vai in giro e cerchi Pokémon insieme. Infatti, tanto è vero che questa cosa è stata subito percepita dagli sviluppatori e hanno creato tutta una serie di app di dating legate a Pokémon, no. che si chiamano per esempio PokMatch o PokDates, ma l'intento è molto intelligente. Infatti ne scriveva Forbes questa settimana dicendo che proprio sono l'uovo di Colombo, perché non fanno soltanto socializzare su internet. Cosa succede? Tu per esempio scarichi Pokédates e devi inserire le tue informazioni e anche quando sei libero per andare a caccia di Pokémon. Andare a caccia di Pokémon che è una cosa che si fa offline, cioè lo fai online ma lo fai anche offline, ti devi vedere con qualcuno per farlo e quindi andate insieme, quindi tu socializzi fisicamente con qualcuno e questo è un po'... ecco, ma posso escludere gli altri? Ma cioè, io voglio dire, quando decido di andare a caccia di Pokémon, metti, vado con Marta a caccia di Pokémon, posso escludere gli altri o mi ritrovo anche tutti gli altri che hanno i Pokémon gli stessi? Tu li ignori. Non è che devi proprio per forza dargli ho capito, ma se i Pokémon sono gli stessi negli stessi posti arrivano in tanti. Vabbè, cioè, li andiamo a cercare nei posti un po', non è che ti porta... riservati. Non è che ti porta cioè, a cercare San Frattamo. Andiamo a cercare i Pokémon ma San Frattamo, ma scusa, che non è che ti porta a cercare i Pokémon in Piazza Duomo vabbè, a Milano allora dove ci sono tutti, capisci, grandi aziende, la Nintendo, stanno appresso, costruiscono business plan attorno, vabbè, al social dating. No, ma che la cosa, poi una cosa che mi ha detto straordinaria Costanza, che invece, sì, allora, sì, ma perché noi parliamo di queste cose? No, è tutto cose. Il tempo che avete deciso la scaletta della su trasmissione, Telegram. Su Telegram, su un Telegram. Altro ancora, tra l'altro mi avete escluso, cosa sì, che sì, no, che ci grave. Siamo telegrammate io e lei, no, cosa che invece c'è Tinder, che è l'app di dating, cioè sì. per cuccare. Quella è ufficiale. Ufficiale. Ma come va? Bene, è ancora di moda? Sì, per degli scopi nuovi però. Cioè? Tipo? Tipo Costanza, io sono impazzita, per cosa lo usano Oddio. Adesso le donne in America? Rocco, non ascoltare, dimmi. Allora... Allora, questa cosa, insomma, è nata da una signora di 47 anni, una ragazza di 47 anni che era frustrata perché non riusciva a trovare, cioè appena questi scoprivano che aveva 47 anni, insomma, la mollavano e non volevano uscirci. Allora, un po' di queste si sono messe insieme e hanno pensato, ma l'utile al dilettevole, perché intanto non siamo questi qua per farci dei lavoretti in casa, per esempio riparare il condizionatore adesso che è estate, il tubo del, ma sappiamo spiegala bene, l'idraulico, no? Il fatto è che gli uomini ci cascano, cioè nel senso, tu metti assolutamente le mani avanti e usi Tinder, come molti stanno facendo tra New York e Los Angeles adesso, e usano Tinder per trovare un handyman, una persona che faccia bricolaggio in casa, che ti aggiusti le mense, eccetera, cose che magari non sai fare. L'uomo ci sta lo stesso, pensando che in qualche modo tra una cosa e l'altra nascerà la scintilla tra lui che è messo di stesso lì per ripararsi il tubo del lavandino, e quindi comunque convolerete, e da cosa nascerà cosa, insomma. E quindi, ma non è che pensano che sia una finzione erotica, cioè che pensano che sia un gioco, invece vanno lì e devono, ma veramente, ma che pensino quello che vogliono, tanto che riparano, esatto, è possibile. Ma però è molto divertente. Ed è, se vogliamo, quello che in realtà ci stavamo dicendo io e Marta su Telegram, adesso che dobbiamo spiattellare anche in radio queste comunicazioni, che alla fine ci siamo tutti. Per esempio, c'è una lamentela molto diffusa negli Stati Uniti per ora, che è di questa app che si chiama Vemno. Vemno era una cosa lanciata da PayPal per dividere le spese, per esempio le spese di casa quando ci sono 5 coinquilini. Adesso invece ha un lato nuovo, viene usata dai ragazzi per scucire alla ragazza con cui escono metà della somma spesa per questo primo appuntamento senza dirglielo. Cosa succede? Che lui fa tutto il cavaliere, non si presenta coi fiori, allora lei è più ben disposta, magari dopo una bella cena eccetera, lui paga tutto, lei si concede. Quando arriva a casa, invece di ritrovarsi il messaggino di lui che dice ah, come è stato bello, vediamoci di nuovo eccetera, il messaggino che arriva è uno per un rimborso spese di esattamente metà della somma. Cioè ha smezzato senza saperlo. Ha smezzato senza saperlo. Però devo dire che queste cose che racconti sono significative da un punto di vista che il virtuale sta tornando a creare occasioni di reale. Cioè bisogna, esatto, arrivare a rincontrarci. Hai capito? Che, perché lui dice che Pokémon, invece secondo me sotto questa app il fatto che si possa socializzare è una vera svolta, perché ad esempio c'è stato un avvistamento di un Pokémon raro a Central Park, mi pare, Costanza. Sì, a Central Park avevo, sì. E quindi tutti si sono ritrovati lì. Assembramento, e la gente si è conosciuta e soprattutto è andata a giocare fisicamente insieme. Si torna in piazza, grazie alle piazze virtuali si torna in piazza. Vabbè, non è male. Grazie, ciao, a Costanza Rizza, Casa d'Orsogna. Ciao Costanza. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. YouTube. Beh, ci ritroviamo insieme dopo la pausa. Non abbiamo ancora ripetuto i nostri account di Twitter. Giusto. Chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, sì, cancelletto Radio Tube, cancelletto ISDV. Non abbiamo, gli ascoltatori non hanno capito niente perché l'abbia detto uno sopra l'altro, ma noi siamo fosse un po' la così. Prima volta che ci parliamo uno sopra l'altro, dice che io dovrei parlare sotto e io sì, perché sono il cocò. Ah, ok. È come il cocò pro. E tu dovresti parlare sopra, invece ogni tanto io parlo sopra, perché vabbè, comunque questa teoria radiofonica. Invece parliamo di quando io dico la parola conduttore, sì, uno dei tre o quattro che ti viene in mente. Allora ti posso fare una considerazione? Fammi. Di solito si pensa a quei 4, 5, anzi diciamo proprio i 4 moschettieri, che erano Corrado, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Enzo Tortora, no? Allora di solito quando c'è i conduttori, però noi che siamo stati bambini tra gli anni 70 e gli anni 80, siamo cresciuti anche con una, con una televisione molto diversa, che era quella che si respirava non solo nella TV ufficiale che era la Rai, ma quella che si cominciava a guardare, a scoprire anche nelle TV locali. Perché quella ufficiale erano quelli un po' più grandi, era, capito? Sì, cioè, era quella istituzionale. Invece c'era la scoperta dei nuovi tasti, delle nuove cose. L'arrivo delle TV private. L'arrivo delle TV private. Io che sono lombarda, e anche tu, anche se sei un po' piemontese, ma sei lombardo vale anche uguale, tu, che vale uguale. Si vedeva benissimo lì. Siamo cresciuti con il mito, ancor prima che di Fininvest, poi Mediaset, che è arrivata dopo, con il mito di Antenna 3 Lombardia, sì, sì, dalla quale è nata gran parte della comicità che tutta l'Italia conosce oggi, ma non solo, che è stata una palestra di grandi conduttori, che sono poi assurdi alla ribalta nazionale e che sono diventati dei grandi maestri della televisione. Che pippone che ho fatto! No, però è giusto spiegare, è giusto spiegare tutto ciò, perché abbiamo al telefono, e io veramente mi alzo in faccia una standing ovation, una miniola, sì, mia, per un grandissimo maestro della televisione italiana che abbiamo in collegamento con grandissima mia emozione, e anche Daniele Bellasio. Sì. Buonasera a Ettore Andenna, buonasera Ettore! Ciao! Ciao a tutti gli amici di Studio 24, ciao Marta, ciao Daniele, ho sentito tutto questo pistolotto iniziale. però non c'erano errori! Non dico coinvolgente, ma anche pesante, perché poi uno deve giustificare tutte questi elogi che avete messo però, in dai, campo. Era, è vero, dai, perché soprattutto per noi di una certa generazione... Sì, esatto. Sia la TV locale, sia quelle cose che tu, adesso tra poco ne parleremo, hai fatto nella TV nazionale, sono stati veramente dei momenti importantissimi nella costruzione. Fatemi dire una cosa bruttissima. Dell'immaginario collettivo, lo sapevo. Beh, però giochi senza frontiere, dire, proprio, cioè si fermava, allora, il paese. Facciamo una cosa, vai. Entriamo un po' in atmosfera giochi senza frontiere, entriamoci. C'erano Pancaldi e Olivieri col fischietto. Beh, grandissimi momenti. Quanto ci sarebbe ancora bisogno oggi di Giochi senza frontiere? Secondo me tantissimo. Tra l'altro, Ettore, Giochi senza frontiere avrebbe compiuto 50 anni in questi periodi. No, 51, perché nacque nel 65. Nessuno conosce la storia vera di Giochi senza frontiere. Nasce da un'idea italiana, pensa a te. Erano anni in cui si costruiva l'identità europea anche attraverso, certo, l'intrattenimento. Ma Giochi senza frontiere nasce da Campanile Sera, sì, del grande Papi Perani, che era una trasmissione inizio anni 60 presentata da Mike Bongiorno, Enzo Tortora, Renato Tagliani, chi più ne ha più ne metta. L'autore era Papi Perani, venne Guy Lux, che era il Mike Bongiorno francese a Milano, prese 112 copioni di Campanile Sera, andò da De Gaulle, che era amico suo, e gli disse: voici mon général l'émission européenne, eccoci qui il mio generale alla trasmissione europea, e quello gli rispose: vas-y mon pote, vai amico mio, falla. E lui la fece nel 65, ispirandosi a Campanile Sera, fece Germania contro Francia, e nello stesso tempo in Francia fece partire Interville, che era uno scontro fra città, quindi Campanile Sera, che va tuttora in onda in Francia, per cui vive anche lì da 51 anni. L'Italia poi entrò nel 66, per cui Francia, Germania, Italia, dal 66 Giochi senza frontiere. Però in effetti quest'anno Giochi senza frontiere compie 51 anni. Incredibile, pazzesco. Però i tuoi ricordi, cioè i nostri ricordi di te, sono legati anche ad alcune trasmissioni che andavano in onda ad Antenna 3. Allora, adesso dobbiamo dirlo, la Bustarella. Adesso io non so era quanto divertente. Nel resto dell'Italia possano conoscere di questo gioco, che beh, era un nel gioco nord si vedeva nel nord ovunque, dappertutto. Erano delle sfide, con dei giochi molto semplici, con dei concorrenti molto semplici, molto genuini, ma ogni tanto era un po' scollacciati. Le mie squadre si formavano fra fra amici di quartiere, fra associazioni sportive, categorie, venne la squadra dei taxisti di Milano per esempio, e formavano queste squadre e venivano a giocare con giochi che noi, con un gruppo di autori che erano Cino Tortorella, un grande mago Zurlì, Poppi Perani, che era l'autore di Giochi senza frontiere, del Rischia tutto, di Portobello, di Chi più ne ha più ne metta, e sottoscritto tutte le settimane mettevamo dei giochi e questi venivano, non sapevano di che cosa si trattava e dovevano, il detto era pronti a tutto, sì, perché poteva succedere di tutto, e si faceva la bustarella. Ne abbiamo fatte poche puntate, 283. No, sì, incredibile. Però i bambini non avevano il permesso di guardare la bustarella. La guardavano un po' di nascosto. Di guardarlo ufficialmente. Sì, ufficialmente. Perché chi non l'avesse mai vista, ogni tanto, lo dico in linguaggio tecnico, qualche tetta scappava fuori da questi. Dai! Però sai cosa c'è, Ettore? Noi abbiamo cercato in rete delle immagini ed è difficilissimo vedere delle immagini della bustarella. Sì, perché Tele Lombardia, che ha comprato Antenna 3 e ha tutte le trasmissioni, la tiene un po' come, come la RAI. Dunque, la RAI è la depositaria del titolo Giochi senza frontiere e anche del titolo internazionale Jeux sans frontières, che oggi sarebbe anche anacronistico visto quello che sta succedendo in Europa. E ha questi diritti fino al 7 luglio 2020. Li detiene per non farla. Lo stesso succede a Tele Lombardia con la bustarella, la tiene come un tesoro in un forziere in fondo al mare, e addirittura faccio fatica io, se io chiedo dei DVD, delle trasmissioni, faccio fatica ad averli, ce li ho ma di straforo, perché c'è il direttore tecnico che me le fa avere, se no devono rimanere qua come in perituro ricordo, un museo della televisione, anche perché all'epoca effettivamente con trasmissioni come la bustarella, il pomofiore, il bingo, quindi grazie al genio di Renzo Villa e di Tortora che si inventarono per le alto milanesi Antenna 3, si cambiò il modo di fare la televisione in Italia. Fammi ricordare anche Lucio Flauto, questo segreto in un forziere, questo museo di trasmissioni che Tele Lombardia ha tutte. Ecco, ma Ettore, c'è ancora un po' di spazio? Una delle cose belle di quel tipo di televisione era, non so, la televisione di prossimità, cioè era bello perché appunto c'erano le associazioni del paese che tu conoscevi, insomma ti sentivi vicino a chi faceva la televisione. C'è ancora spazio? Io la vivevo, mi divertivo come un matto tra le altre cose a farla, perché quando inventavamo i giochi uno si immaginava quella che sarebbe stata la reazione di quelli che li avrebbero fatti. Per cui già ci divertivamo a idearla e a pensarla, e poi ci divertivamo quando la facevamo, anche se era faticosissima, perché arrivavamo a fare 5 ore di trasmissione in diretta, come si dice, dovevi avere il fisico. Ma c'è ancora spazio per un po' di televisione? Cioè, qual è il ruolo delle televisioni del territorio in una fase in cui c'è internet, Netflix, YouTube, tutto questo? Allora, quella televisione era una televisione open house, quindi era una televisione aperta al pubblico. Sì. Oggi ci sarebbe ancora spazio, perché il pubblico ha voglia di partecipare, perché non partecipa più. Oggi le trasmissioni vengono imposte al pubblico, non c'è una scelta. All'epoca noi le facevamo partecipare, quindi il pubblico diventava parte vivente dello spettacolo, e soprattutto non c'erano selezioni, ricerca, era tutto assolutamente naturale, per cui il pubblico si sentiva nella televisione di casa, si sentiva come a casa, come se avessi fatto dei giochi sulla spiaggia o nell'aia di casa o nel giardinetto di casa, e questo fu il segreto della bustarella. Giochi senza frontiere era l'emanazione ricca di questa situazione, sì, perché lì le squadre si formavano prima e poi venivano a partecipare in rappresentanza di una nazione, con gli ungheresi che portavano i campioni campioni olimpionici di triathlon e di pentathlon con le carte d'identità false, noi che portavamo la squadra dei pompieri e la nazionale italiana di karate perché avevamo bisogno di avere persone pronte a qualsiasi tipo di prova pseudo sportivo, ludico sportiva, e questo faceva divertire la gente perché c'era un'identificazione sia in Giochi Senza Frontiere dove facevano tipo per l'Italia, sia quando venivano in Bustarella perché invece lì rappresentavano il paese, c'era tutto il paese dietro e quelli che venivano lì a giocare dicevano vabbè ma quei giochi lì li possiamo fare tutti, e poi invece non era così semplice. Attenzione, 3, 2, 1. Ciao. Grazie Ettore Andenna, a presto. Un abbraccione a tutti, ciao. Grazie. La radio è meravigliosa. Ah. Vieni a trovarci, ciao Ettore. Radio Tube. Da cosa si capisce che arriva la bella stagione? Allora, cambiano i palinsesti delle trasmissioni televisive e il passaggio fondamentale per me. Quell'ora in cui inizi un po' meno ad aver caldo. Sì. Inizi, perché è una bellissima ora d'estate quella, in certi posti la vuoi proprio vedere la televisione. Sì, perché io arrivo a casa più o meno a quell'ora lì, perché io esco dalla radio attorno di solito alle 19:15, più o meno il mio orario è quello. Arrivo a casa, magari c'è un po' di traffico. Sì. Siamo interessatissimi. Ma magari ma scusa, no. Cosa ne sai? Magari gli ascoltatori vogliono sapere. Accendo la televisione e fino a un certo momento dell'anno mi godo i miei pacchi e il mio conduttore preferito che è Flavio Insinna. Poi, per mitigare il dolore dell'assenza dei pacchi, arriva l'estate con la mia altra trasmissione preferita alla stessa ora. La mostriamo? Dai, mostriamone un pezzettino. Vai. Di una novità di quest'anno. Ecco qua. Un protagonista della televisione che io ritengo superlativo, era una grande amica, era una donna meravigliosa e mi era tanto piaciuto questo personaggio che si era creato, Sandra Mondaini, con questo famoso personaggio di Sbirulino, un personaggio molto importante. Un protagonista della TV che ritengo superlativo è Carlo Verdone quando arriva dallo spazio. Beh, Maxi Giusti quando imita il sottoscritto, c'è un'apparizione che dovreste vedere, attenta a quei due, Cristiano Malgioglio vero e Maxi Giusti finto. Everybody, cominciamo. Bungete, bangete. Signore, signori. E quando parte questa sigla inizia la serata, comincia a farsi un pochino buio, si accende lo zampirone, queste cose. È estate quando arriva. Te. Allora, abbiamo sentito le voci di Amanda Lear, Teo Teocoli e Cristiano Malgioglio che lanciano le loro proposte per i filmati da rivedere a te. Abbiamo detto una novità quest'anno perché anche il pubblico è stato chiamato a mandare i propri video. Tu per esempio? Fammici pensare, te lo dirò alla fine del blocco. Io tu hai già pensato? Sposi del trio. Ah, fantastico, li so a memoria. Allora, per sapere tutte le novità di questa stagione, ma anche per andare un po' dietro le quinte, perché sono molto curiosa di come si confeziona questo programma fatto con le Techrae, fatto davvero straordinariamente bene, ci colleghiamo con uno degli autori di Te, Giulio Calcinari. Buonasera Giulio. Buonasera, felice di sentirvi. Allora Giulio, ti faccio subito una domanda. Noi, cioè, te, da quando state preparando questa stagione? Ma guarda, alla fine noi quasi non smettiamo mai, perché come finisce un'edizione cominciamo a pensare alla nuova edizione, che cosa fare, facciamo riunioni, studiamo di nuovo i personaggi, gli abbinamenti che possiamo fare con loro nelle puntate, e perciò alla fine, diciamo, parte una pausa ottobre-novembre, ma già a dicembre-gennaio siamo completamente già a riflettere su cosa fare. Quanto dura una puntata di te che te? È difficile, eh? E quanto ci si mette a realizzarla? Allora, 40 minuti la durata, e con una breve anteprima di 2 minuti che anticipa la puntata, c'è cioè una pubblicità in mezzo, e poi a realizzarla ci vogliono almeno un paio di settimane di ricerche, di studi e di riflessioni, e una settimana per montarla con i montatori interni Rai che sono grandiosi. Ci sono delle belle professionalità. Però quest'anno ci sono delle novità, diceva Marta. Che novità ci sono? Allora, innanzitutto appunto ci siamo un po' aperti alle richieste, perché ragionare sempre con la propria testa poi un po' sclerotizza, e invece abbiamo detto vediamo un po' il pubblico appassionato che cosa vorrebbe vedere. Siamo andati dai VIP, diciamo, o dai personaggi famosi dello spettacolo, quelli che ci stanno dentro nella televisione, e ci hanno dato i loro pareri, i loro desideri, e questa sarà le puntate che andranno a giugno. Poi dall'11 luglio avremo le puntate che arrivano fino a fine a 10 settembre, e lì invece avremo il pubblico che manderà una propria videorichiesta, un selfie filmato, in cui in modo simpatico e divertente, perché sono diversissime le richieste, ci chiedono una sequenza e che noi mandiamo in onda proprio in coda al programma. E perciò insomma è un programma fatto anche da chi sta fuori la televisione. Più social, più interattivo. Sì, social, interattivo, insomma ormai questa è la parola d'ordine, però a noi serve molto perché per capire un po' i desideri del pubblico, insomma alla fine la TV di una volta noi la conosciamo, ma magari qualcuno vuole ricordare cose che per noi magari non sono così chiare, insomma, perciò certo. È bello sentire il parere dall'esterno. Però la cosa bella di questa trasmissione è anche che cerchi di individuare il filo conduttore che c'è del montaggio pensato, no Marta? Fantastico. Hai colto nel segno, perché il nostro lavoro più divertente e più complesso è proprio quello di dare dei nessi logici ad ogni sequenza, e perciò tentare di far vedere come ci sono analogie o discrepanze tra un'epoca e l'altra, tra un programma e l'altro. E perciò quest'anno abbiamo messo a confronto quattro personaggi, due comici e due cantanti di ieri e di oggi, in modo tale a far vedere come ci sono tante similitudini anche in alcuni casi, oppure ci sono tante differenze. Poi dico un'altra cosa, che Daniele dice che il vero successo di una persona è quando c'è la sua imitazione o la sua parodia. Secondo me per un televisivo il vero successo è quando riesce a rivedersi in te che te che te. E poi penso anche che quando vedo la TV di oggi mi immagino i vostri nipoti, autori, i pronipoti, autori di te che te che te, non ci sarà tanto da salvare della TV di oggi. Tu cosa ne pensi, Giulio? Ma calcolando che si pensa sempre che era meglio lì ieri che dell'oggi, e alla fine si salva sempre il passato in qualche modo, però devo dirti che la cosa più interessante è vedere per esempio ragazzi giovani che vedono una TV assolutamente strana per loro, perché la gente che ha 40 anni è nata con la TV a colori per esempio, e già questo è un fatto proprio nuovo, diverso. E i ragazzini, tante volte abbiamo avuto riscontro positivo, proprio di dire ma che bello, ma guarda che cosa c'era. Io a volte, a me è capitato di vederla con i miei nipoti e di spiegare loro chi fossero certi personaggi. Mi piace spiegarli come se fossero favole, perché sì, devi raccontare delle storie che a noi appartengono, magari che anche a noi sono state raccontate, perché tanta parte di te che te per, anche per noi è sì, lontana. Certo, sono i racconti dei genitori. Sì, è incredibile, sì. Ha detto 40 minuti, sembra invece una trasmissione velocissima, se 40 ci pensi. Minuti è lunghissima. È lunghissima, è per una trasmissione senza conduttore, senza, cioè complessa, quindi 40 minuti. Vedi, Giulio, ci sarà anche quest'anno un quiz dall'inizio alla fine? No, quest'anno abbiamo cambiato un po'. Perché c'è sempre la formula finale, è sempre diversa. Sì, guarda, abbiamo anche una sigla diversa, ci sono i tablet, i telefonini dentro, insomma, all'interno dei quali appaiono le immagini dell'epoca, insomma, negli anni 60, così, è molto carina. Multimediale. Multimediale, sì, siamo alla moda, siamo trendy, come si suol dire. Giulio, qual è la puntata che ti ha dato più soddisfazione? Finora. Finora, certo. Allora, la mia personale è stata una puntata un po' una scommessa, è stata una puntata sul circo, che è notoriamente molto difficile come tema in televisione, l'ho presa come una sfida qualche anno fa e mi sono divertito, ho avuto un riscontro positivo dal pubblico e mi ha fatto piacere. Molto, molto bene. Ma c'è qualche VIP che so, non, magari telefona, manda SMS e dice magari mi mettete in qualche te? Secondo me sì. C'è? Sì, pieno, ma poi con scuse molto divertenti, tipo domani è il mio compleanno, mi mettete quel filmato, no, oppure cose del genere, sono molto divertenti. Tenerissimo. Tu hai qualche scheletro nell'armadio da far vedere in televisione, Daniele? No, ma io che in televisione mica ho fatto partecipazione, no, non lo a parte so, la lite, no, direi di no, però ho un sacco di volte, guardando te che te ne, mi viene in mente di cioè guardo i loro collegamenti logici e li paragono con i miei, sia rispetto al presente della televisione sia altre cose che mi ricordo. Ah, bello, bello, mi e piace. E quindi è molto piace. Bello, ed è per quello che sembra durare poco, perché ti passa velocemente, che poi è la cosa bella, la televisione funziona quando ti passa velocemente. Verissimo. Questo è proprio scritto. Adesso ve lo dico chi sono quelli che vorrei rivedere. Sì, dai. Allora, la mia triade, Enzo Tortora. Io il triade, beh, Tortora, Enzo Tortora, tutto Portobello. Tortora, sì, Mario Soldati. Mario Soldati, mio grande amore, e Marcello Marchesi. Ah, però. Ah, fantastico. Ecco, vai indietro. C'è un bellissimo sketch in cui c'è Marcello Marchesi che recita con Vianello, e Vianello praticamente fa il cane e Marcello Marchesi lo tratta come un cane, lo fa domesticare, lo fa sedere sul divano. È una cosa veramente esilarante su questo, sugli animali. Te, Rai 1, ora di cena, 20:35 più o meno l'ora, sì, quella. 20:35, 20:40, però chiedo veramente, mandateci tante richieste, perché ci va di farvi divertire proprio con i vostri desideri. Guarda, va bene, ti due anche ce ne le saranno senz'altro. Cioè, forse la facciamo insieme. Sì, la facciamo, ve la facciamo e ve la mandiamo. No, si può fare solo singolo. Allora ve ne facciamo due, dai. Anzi, ve ne facciamo tre, perché ve la facciamo fare anche a Cristian Goldoni. Quattro la facciamo fare anche a Paolo Corleoni in regia. Vi mandiamo fantastico. Quattro richieste. Ciao. Grazie, ciao Giulio. Grazie a Giulio Calcinari. Prova a ridirlo. Provaci. Cosa devo dire? Te. Mi viene benissimo. Allora, Daniele, va bene, noi ci rivediamo sabato prossimo. Se mi vuoi. Non lo so, ci penso per tutta la settimana, poi vediamo. Tu citofonami sabato e vedo se ti faccio salire in radio. Va bene, va così? Bene, al va prossimo bene, sabato, ciao. Con Radio Tube. Grazie a Cristian Goldoni in redazione, grazie a Roberta Frisani in regia, e l'appuntamento al prossimo ciao. Sabato. Ciao.